Cara Nicoletta, ma sei venuta a Livorno per il bagno dell'Immacolata? No. Io sono entrato in acqua fino alla prostata. È assolutamente classico che arrivino ragazzi o uomini adulti o di mezza età o piuttosto che anziani dicendo io ho la prostata, e noi siamo soliti dire per fortuna. Per fortuna. Insomma, i gioielli di famiglia vanno tenuti un po' al calduccio. Assolutamente sì. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E cara la mia Nicoletta, l'altro giorno il Censis ce l'ha cantata chiara, anzi ci ha proprio stesi senza mezze parole, ci ha detto che siamo la frutta, un paese sotto sforzo, meglio profondamente fiaccato da una crisi persistente. Si potrebbe riassumere così il 47esimo rapporto sulla situazione sociale del paese. Però non siamo crollati, siamo ancora in piedi anche se con grande fatica. Allora direi che in questo momento noi abbiamo bisogno di fare un po' il pieno di energie, di recuperarle. Proprio energia sarà la parola chiave di oggi a Cuore Denari. Perché anche noi rappresentiamo, forse non sempre, ma spesso in pieno, questa fotografia del nostro paese. Chi è che non si sente un po' scarico? E allora noi oggi faremo, come detto, il pieno di energia per ricaricare il fisico e la mente. Lo faremo con un grande esperto. Noi siamo molto contenti, vero? Moltissimo. Che è già fotografato su Facebook. Mm-hmm. Andate un po' a vederlo. Qua in studio con noi il dottor Filippo Ungaro. Buongiorno. Devo presentarla? Io sono stufa di presentarla. Ormai è più famoso di me, te, messi insieme, sì. Te lo dico. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E contento di essere di nuovo qua in studio. Grazie, finalmente l'abbiamo portato in studio. Allora, se volete parlare con il dottor Ungaro, ricevere i suoi consigli, raccontargli la vostra situazione, vi sentite più scarichi a livello fisico, a livello mentale? Che cos'è che vi fiacca? 800 24 00 24. Questo oggi, solo dalle 11:12 di oggi sino alle 12:30 diventa un numero super ricaricante. Adesso però dobbiamo fare gli stessi complimenti anche al nostro secondo ospite, perché non solo per il nostro corpo ma anche per la nostra casa l'energia è importante. Prendete carta e penna, perché oggi con Mirko Mion, presidente dell'associazione Geometri Fiscalisti, l'AGEFIS, se torniamo a riassumere i bonus fiscali pensati per incentivare le prestazioni energetiche delle nostre abitazioni. Mion, buongiorno. Buongiorno a tutti. È un gran bell'uomo anche lui, adesso non è per dire, però. Buongiorno, ecco. Io non vedo l'ora di conoscerla. Ecco, quando ci viene a trovare a Milano, Mion? Quando mi invitate sui temi della, diciamo, cari alla nostra associazione, esatto. Io sarò disponibilissimo. Tra l'altro, guardi, ne mettiamo subito una in pista per le prossime settimane, che è quella della mini IMU che dobbiamo pagare entro metà gennaio. E allora 800 24 00 24 anche per gli incentivi fiscali per la ristrutturazione della casa e il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'abitazione. Quindi ci farai risparmiare anche un po' di soldi. Quindi tu sei sì una donna di denari, ma hai anche molto cuore. Anche un po' di ciccia da qualche parte, tanto cuore, zero prostata, perché quella ce l'hanno Mion e Ungaro. Oh, siamo a posto, allora. Partiamo, che è meglio. Salva Danaio. Sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio. Allora, magari non da quando è nata, ma sicuramente negli ultimi tempi tutti i temi della crisi hanno contribuito non poco a fiaccare il nostro paese, un po' come appunto l'ha fotografato il Censis recentemente. Insomma, cara Deborina, la spia dell'energia in riserva, ma noi cerchiamo di capire di quale energia abbiamo bisogno, se siamo in rosso su quella fisica o su quella mentale. Dottor Ungaro, tocca a lei aiutarci. Ma secondo me è molto importante capire come ci si sveglia, e sarebbe una domanda proprio da fare ai nostri ascoltatori, cioè come vi svegliate al mattino, perché se al mattino ci si sveglia già stanchi, quindi non si riesce a recuperare nel corso della notte, io lo interpreto sempre come un segnale che c'è qualcosa che non va da un punto di vista anche fisico. Mm-hmm. Evidentemente abbiamo veramente scaricato le batterie, siamo forse anche oltre il rosso e abbiamo veramente bisogno di riprendere forze a tutti i livelli. Viceversa, capita molto più frequentemente a molte più persone, diciamo, di svegliarsi in condizioni abbastanza buone, ma poi nel corso della giornata non tenere, cominciare a sentire un po' di stanchezza nel pomeriggio e alla sera, e anche magari una sorta di stanchezza che incide un pochino di più sull'umore, l'irritabilità, il nervosismo, il pessimismo. Ecco, questi sono più segnali ovviamente di una stanchezza mentale non da sottovalutare, ma forse un po' più facile, insomma, da recuperare rispetto a quelle condizioni in cui già alle 7 di mattina, quando suona la sveglia, fai veramente fatica ad alzarti. E purtroppo non sono pochi quelli che fanno fatica ad alzarsi, anche perché c'è tanta gente che non dorme bene, e non dormire bene vuol dire non recuperare. Assolutamente. Allora, 800 24 00 24, la domanda è chiara: come vi svegliate la mattina? Iniziate a chiamarci, potete come sempre scriverci, oppure qual è invece nel corso della giornata il momento in cui sentite la fiacca, sentite andare giù l'energia, quindi soprattutto a livello di umore, perché da queste indicazioni il dottor Ungaro riesce un po' a fotografare, a darvi anche delle indicazioni, a capire soprattutto se siete più stanchi a livello fisico o invece a livello mentale. Intanto dateci anche dei suggerimenti, qualche trucchetto che voi utilizzate per risparmiare energia o per farla fruttare. Dottor Ungaro, tra poco noi parleremo del risparmio energetico delle nostre case, che è una buona mossa per risparmiare soldi, ma anche una scelta salutare per l'ambiente. Ma il risparmio energetico, dottor Ungaro, lo facciamo anche noi. Se alla parola energetico noi sostituiamo calori, diventiamo molto alla moda, perché si avvicinano le feste, c'è chi vuole portarsi un po' avanti, dire dimagriamo prima per sfogarsi dopo. Che bella scusa, il dottor Ungaro ci lancia ne dimagriamo scappa. Uno per recuperarne quattro. E il risparmio calorico, lo sappiamo, è uno dei cavalli di battaglia del professor Veronesi, che abbiamo avuto il piacere di avere qua in studio, con la dottoressa Luini, che ha scritto il libro con lui, insomma, un grande digiunatore. Dottor Ungaro, quindi direi che di risparmi ne possiamo fare tanti. Beh, diciamo che la restrizione calorica, così si chiama, è una, forse l'unica vera soluzione che è stata dimostrata avere un effetto reale sull'allungamento della vita in vari modelli animali, e anche indubbiamente sulla prevenzione di molte delle patologie croniche degenerative tipiche della terza età. Si può ottenere in vari modi, certamente il digiuno è uno di questi, ma potremmo anche dire che mangiare semplicemente un po' meno è una forma di restrizione calorica, così come il mangiare meglio è una forma di restrizione calorica, cioè quando io sostituisco alimenti che sono ricchi di calorie ma poveri di nutrienti a favore di alimenti che al contrario sono ricchi di nutrienti ma poveri di calorie, sto facendo una restrizione calorica. Un'altra forma di restrizione calorica è l'esercizio fisico stesso, sì. Perché chiaramente ti fa attivare una macchina metabolica e quindi ti fa consumare gli eventuali eccessi di calorie che sono stati assunti. Sul fatto di fare un approccio di restrizione calorica prima delle feste, io non lo trovo un'idea del tutto sbagliato. Cioè, sappiamo che ci sono dei giorni chiave durante le vacanze di Natale in cui è inevitabile, forse anche sbagliato, sacrificarsi troppo, no? Perché sono delle giornate in cui dobbiamo anche stare a tavola con la famiglia, i bambini. Incido queste parole sulla pietra, ecco, sì. Una volta tanto che le dico, incidiamo. No, ma è vero, nel senso, no, però certo. Possiamo perlomeno delineare, definire a priori quali sono quei giorni, quindi non far diventare il banchetto di Natale dal 20 di dicembre al 10 di gennaio, ma concentrarsi su alcune giornate e magari un po' di giorni prima, perché no, cominciare a ridurre invece un po' l'introito di alimenti, certo. In modo da preparare e poi fare qualche bella passeggiata, soprattutto non sedersi a tavola dicendo beh, tanto che ingrasso mangio tutto, certo. Magari un po' trattenersi, ecco, anche fare un po', poi appunto buttarli via la tecnica dell'assaggio, la qualità sulla quantità. Sulla qualità. Ma questa mattina, che perle di saggezza, hai abbiamo visto? Anche appreso la tecnica, com'è che è la tecnica dell'assaggio. Senti, c'è Enrico che su Facebook ci scrive, perché io generalmente da questa postazione riesco a monitorare meglio i social network, mentre Nicoletta tiene sotto controllo telefonate e messaggi. Enrico su Facebook al nostro profilo ci scrive: per ricaricarsi bisogna prima capire che cosa ci scarica. Non so se il dottor Ungaro è d'accordo. Io personalmente, avendo un sovraccarico ai muscoli oculari, quando prendo un complesso di vitamina B, riattiva il corpo calloso, rinasco e lavoro anche meglio, così ho curato sia cuore che denari. Però Enrico è un medico, perché ha un camice. nella foto. Il corpo penso che calloso. Sia, no, penso che sia molto vero questo, cioè per capire come ricaricarsi devi prima capire cosa ti scarica. Non è così semplice la cosa, non è che tutti hanno chiaro davanti quali sono i motivi che, per cui una certa energia viene tolta, drenata, no? Però è chiaro che la prima soluzione è quella del capire perché, sono d'accordo. Intanto facciamo una piccola parentesi su questo corpo calloso, che non è il caldo del mignolo su cui batte la scarpa, ma è qualche cosa di molto più nobile. Tra l'altro volevo aggiungere, le vitamine del gruppo B sono molto importanti in tutti i processi energetici, quindi il fatto di assumere vitamine del gruppo B è una delle prime cose, diciamo, che un medico può pensare di fare nel momento in cui manca l'energia. Mentre il corpo calloso? Il corpo calloso, io non so che cosa sta parlando esattamente Enrico. Il corpo calloso penso che sia la parte del, una parte del cervello. Certo, la parte del cervello, ma non capisco bene come fa a definire che c'è un problema il corpo calloso. Anche lui ha voluto così un po' metterci a disposizione questa sua teoria. Allora, sentiamo Mirko Mion come si ricarica. Dottor Mion, lei, a parte che deve affrontare tutti i giorni un sacco di problemi degli contribuenti italiani, dare tutti i suggerimenti del caso per essere a posto con le tasse quando ristrutturano casa e non solo, anche con l'IMU, poi ne parleremo. Lei come si ricarica quando, come dire, perde un po' smalto, lucidità, perché chiaramente anche il lavoro tutti i giorni è pressante, quindi in qualche volta appunto il sacrificio è... Si io attento. Mi ricarico in modo naturale utilizzando l'estratto di papaya che mi è stato consigliato e devo dire che mi apporta discreti benefici da un punto di vista energetico. Bene. Effettivamente in questo periodo qui ne abbiamo estremo bisogno dei consigli del dottor Ongaro, perché noi in particolare come geometri fiscalisti in questo frangente dell'ultimo adempimento, diciamo così, per quanto riguarda l'IMU tradizionale entro il 16 di dicembre, poi questa mini IMU, fantomatica mini IMU del 16 di gennaio, siamo chiamati veramente ad una corsa, ad una maratona veramente stressante. E insomma, si sente anche lei un po' fiaccato? Siamo fiaccati in questo periodo, siamo fiaccati e ci apprestiamo anche ad affrontare le vicende del Natale, quindi ascoltavo con grande attenzione questo periodo di restrizioni che anche gli italiani stanno purtroppo torto collo affrontando con questi temi legati alla fiscalità. Allora, anche restrizioni anche di altra natura. Certo. Intanto, dottor Mion, qual è il momento critico della sua giornata? Così rilanciamo la domanda ai nostri ascoltatori. Come vi svegliate al mattino o nel corso della giornata avete un calo di energia? Queste due domande permettono al dottor Ongaro di individuare se siete più in riserva per quanto riguarda l'energia fisica o invece quella mentale, e ci sono delle indicazioni che vi aiutano a rifare un po' di rabbocco. Posso dire che già me lo immagino, povero Mion, quando la mattina apre i giornali e legge che è di nuovo cambiata la fiscalità sulla casa. Mion. Sì. Diciamo che momento critico, riusciamo ad arrivare carichi e dobbiamo rimanere carichi un po' per tutto il giorno, anche se in effetti poi con il susseguirsi delle attività del quotidiano nel pomeriggio effettivamente è il momento in cui io per modo particolare risento maggiormente di una sorta di debolezza, ecco, un calo dell'attenzione, quindi dobbiamo ricaricarci nel pomeriggio. E io mi ricarico prevalentemente nel pomeriggio. E lì va degli estratto di papaya, dottor Ongaro, ma lei suggerirebbe d'altro? Ripeto, quello che ho detto prima, per esempio le vitamine del gruppo B sicuramente molto importanti, sono molto importanti anche tante piante cosiddette adattogeniche, il ginseng, la rhodiola per esempio, l'ashwagandha, sono molto utilizzate adesso come tonificanti, sono piante che derivano da varie medicine tradizionali, l'ashwagandha per esempio è una pianta ayurvedica. Le mie bacche di goji me le trascura così? No, oggi. Anche le bacche di goji, diciamo lì è più un discorso antiossidante. Ma ci sono tantissimi preparati naturali. Non vogliamo che tu arrugginisca. Esatto. È matematicamente impossibile con questi check-up quotidiani che faccio con te. Vero, è perfetta. No, guarda. È rifiorita. Ma figuriamoci quando che sta con me è rifiorita. Solo a sentire tutte queste cose. Esatto. Io sono sempre squatrinata però, anche se mi manda lezioni. Ma quello pure io, vai tranquillo. Allora, quindi insomma abbiamo riassunto un po' le tecniche che possono essere adottate quotidianamente per migliorare le proprie prestazioni energetiche quotidiane. Ritorniamo alla nostra casa? Certo. Ritorniamo alla casa, perché mentre voi con i nostri suggerimenti pensate a come risparmiare le calorie del vostro corpo, io mi faccio dire da Mirko Mion quali sono i suggerimenti di base per far risparmiare l'energia alla nostra casa. Poi torneremo al riassunto dei bonus fiscali per appunto la riqualificazione energetica dell'abitazione, che tra l'altro stanno scadendo, ma potrebbe esserci in vista una proroga. Ma andiamo subito ai suoi suggerimenti. Cosa dobbiamo fare all'interno dell'abitazione per non disperdere inutilmente calore ed energia? Beh, ci sono tutta una serie di operazioni di carattere, come dire, edilizio, che oltre ad un comportamento sicuramente virtuoso che ogni cittadino dovrebbe tenere nell'utilizzare l'energia in generale, quindi il riscaldamento e l'energia elettrica, però ci sono tutta una serie di operazioni edili che possono migliorare l'efficienza energetica della nostra casa. Importante ricordare che il patrimonio edilizio italiano è tra i più energivori d'Europa. Esatto. Infatti, come citava lei, secondo proprio le stime del Censis, il 55% delle famiglie italiane risiede in abitazioni che sono state costruite prima del 1971. Ciò significa chiaramente che venivano adottate tipologie di costruzione che non davano quella qualità e quel parametro di efficienza energetica che oggi si ricerca attraverso anche questa leva fiscale. La leva fiscale che prevede proprio col DL 63, chiamato cosiddetto decreto energia, facendo aumentare la detraibilità dal 55 al 65%, perché ricordiamo che fino al 31-12 allo stato attuale è prevista questa detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica. È stato anche emanato per recepire le disposizioni urgenti della direttiva europea, la 2010-31. Il piano 20-20-20. Esatto, ed è stato quindi anche adottato questo cosiddetto piano 2020. Che cos'è questo piano? Si tratta di un insieme di misure che sono state pensate dall'Unione Europea per il periodo successivo al termine del protocollo di Kyoto. Prevede in pratica di ridurre l'emissione di gas serra del 20%, alzare del 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico, tutto ciò entro il 2020. E questo, diciamo in estrema sintesi, è il cosiddetto pacchetto clima-energia, per arrivare addirittura con una gittata molto più lunga nel 2050, con l'obiettivo di creare l'edificio ad energia quasi zero. Quindi quando parliamo di tutti questi interventi dello Stato per permettere agli italiani di risparmiare fiscalmente sugli interventi appunto per riqualificare la propria casa, hanno come dire una derivazione molto lontana. Non sono interventi che vogliono anche questo, rilanciare i consumi, far riprendere il settore dell'edilizia, il settore per esempio dell'arredamento del bianco, che è veramente strafiaccato dalla crisi. Il tema è che invece le nostre case devono, dottor Ungaro, magari lei è d'accordo, respirare meglio, esattamente come il nostro corpo. Esattamente. Sì. E poi c'è una teoria molto carina di cui vorrei parlare con il dottor Ungaro, ma lo facciamo magari dopo i mercati, che riguarda un po' la teoria del grasso bruno, che ha un collegamento con la temperatura delle stanze in cui noi dormiamo. Ma prima vogliamo salutare i nostri ascoltatori chiamando tantissimi, anche scrivendo, okay. Sì, vedi, ad esempio, ciao ragazze, bacche di Gogia, go go. Abbiamo ripeterei il ciao ragazze. E poi abbiamo anche un rugbista, perché ieri abbiamo avuto Mauro Bergamasco, di cui ci siamo innamorate entrambe, ma insomma vabbè. Colazione con spremuta, pane, burro e pappa reale, perfetto, infatti è un rugbista. Ma abbiamo Elena dalla provincia di Modena, Alla dalla provincia di Treviso e Andrea dalla provincia di Pisa quale scegliamo e gli altri li traghettiamo con noi dopo i mercati? Scegliamo Alla dalla provincia di Treviso, che come dire vuole maggiore attenzione su un tema che abbiamo lanciato così, ma che invece mi sembra che sia il caso di approfondire. La sentiamo subito. Alla, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Chiamo da Treviso. Sì. Forza. Io vorrei chiedere qualche informazione al dottore. Siccome io praticamente in 2007 ho avuto un attacco di panico, praticamente, Non so, si è collegato. Certi volti mi sento proprio stanca. E la proprio vostra trasmissione hanno sentito come... Mi sento anch'io proprio così, nervosa, di pomeriggio stanca, non voglio proprio di fare niente, vedere nessuno, stanca, nervosa. Ecco, quindi il dottor Ongaro sicuramente fotografa Alla nelle persone che sono scariche mentalmente, no? E poi c'è stato anche l'aggravante, se vogliamo, dell'attacco di panico che non va trascurato, ma che bisogna cercare di risolvere e affrontare. Ma dottor Ongaro... No, sicuramente sì, cioè il fatto di questo pregresso, diciamo, fa pensare che possa essere una situazione di questo tipo, possono anche essersi instaurati dei fenomeni di tipo depressivo, e tenderei quindi a dire, consiglio di parlarne con il medico in casi come questo. Insomma, sono anche sintomi che non devono allarmare, ma che allo stesso tempo, se vanno avanti per troppo tempo, non devono nemmeno essere trascurati, perché alle volte possono anche esserci delle problematiche che si risolvono facilmente, ma si deve intervenire con l'aiuto di un medico. No, tra l'altro c'è un'altra ascoltatrice che ci scrive alla mail di Cuore Denari, ci ricostruisce un po' il suo caso, è piuttosto lungo, però dice è andata dal medico che non gli suggerisce altro che integratori, ma lei non si accontenta perché sente che questo disturbo, insomma, della stanchezza cronica non passa. E magari da questo riprendiamo. Che ne dici? Sicuramente. Adesso andiamo ai mercati finanziari, a tra poco. Cuore e denari. Sono pieno di energia ed il mondo è casa mia. Voglio vivere perciò ogni attimo. Ed eccoci di nuovo in diretta. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani, da Nicoletta Carbone e anche dal nostro Filippo Ongaro. Ah, l'ho presentata io, cioè proprio mi sono lasciata andare un attimo. Sono e così abbiamo, con te. E abbiamo anche un altro uomo, certo, in linea, che non abbiamo qui fisicamente. Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti. Perché tutti questi ospiti insieme? Perché oggi parliamo, dato che il Censis dice che l'Italia è un paese fiaccato, vogliamo sotto dare sforzo. Consigli antifiacca, quindi vogliamo recuperare energia. Parliamo di energia tutto tondo, dall'energia fisica, quella mentale, a quella che c'è nella nostra casa, e cerchiamo di risparmiare energia, inteso come soldi, facendo un po' i conti per bene. Allora, il 47esimo rapporto del Censis, dal quale siamo partite questa mattina, parla anche della casa, torna ad inquadrare la questione del rapporto degli italiani con la casa. Solo una famiglia su due riesce a comprarla, ma chi ha una casa di proprietà sta approfittando alla grande, e lo ha fatto molto negli ultimi anni, di tutto quel pacchetto di incentivi fiscali destinati a chi esegue lavori di manutenzione straordinaria, fra i quali troviamo anche quelli pensati appositamente per il risparmio energetico. E allora, quali sono questi lavori? Rifacciamo un punto della situazione, se volete, anche grazie alle vostre domande all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. Mion, ammettendo che gli incentivi, quelli massimi, quelli al 65%, scadano il 31 dicembre, speriamo di no e speriamo che il governo li voglia prorogare, appunto, quali sono i tipi di lavori che sono compresi in questo bonus? Allora, nel bonus abbiamo, come dicevamo, tutti i lavori legati alla riqualificazione energetica, cioè l'obiettivo di questo bonus del 65%, che, come diceva giustamente lei, scadrà il 31-12, però trova già un grande spazio nella legge di stabilità, con una proroga per tutto il 2014 e con una diminuzione dal 65 al 50% per tutto il 2015, sono quelle spese, dicevo, che hanno come obiettivo un miglioramento della prestazione dell'indice di prestazione energetica. Quindi è il rifacimento degli infissi per eccellenza. Rifacimento degli infissi, le coibentazioni, la sostituzione anche di pavimenti, di finestre, l'installazione di pannelli solari. Ricordiamo qui con precisione i pannelli solari legati alla produzione di acqua calda, quindi non produzione di energia, che comunque trovano spazio eventualmente nel bonus del 50%. In questo caso possiamo pensare ad un miglioramento ed un efficientamento energetico, non con il 65 ma con il 50%. Certo, Mion, sono generalmente lavori abbastanza impegnativi per una casa. Ammettendo che qualcuno si svegli questa mattina poco stanco, ma magari particolarmente ricettivo ai nostri suggerimenti, e voglia rifare appunto le finestre della propria casa per ottenere questo incentivo, ma magari non riesce a trovare l'impresa, i lavori chiaramente sono lunghi, che cosa può fare comunque per non perdere il beneficio fiscale, anche se non riesce a fare materialmente i lavori? Beh, diciamo che i tempi sono abbastanza stretti, però potrebbe dare l'avvio a questi lavori e dare una data certa di inizio. E ma quindi, magari pagare subito e anche fare i lavori a gennaio. E pagare anche subito. Io ritengo, insomma, mi sento di tranquillizzare abbastanza gli italiani da questo punto di vista, perché come dicevo, nella legge di stabilità troviamo questo rinnovo del bonus fiscale, che è un rinnovo voluto in maniera assolutamente bipartisan da tutte le forze politiche, quindi mi sento da questo punto di vista di tranquillizzare gli italiani anche riferimento alla direttiva di cui parlavamo prima. E poi insomma, male che va, se dal 60, se il 65 non viene mantenuto, andiamo al 50, che proprio non è che ci faccia schifo. Tutti gli interventi sull'involucro degli edifici, quindi quel cosiddetto cappotto termico, che poi da un punto di vista, andando nel tema un po' della salute... Aspetti un po', adesso di un cappotto ne parliamo noi, perché c'è questo simpatico grasso bruno che voglio sapere che cos'è. Il grasso bruno di cui volevamo parlare, è un cappottino che abbiamo addosso? Non è proprio addosso, ma si sviluppa. Noi volevamo proprio agganciarci all'idea dell'energia e anche alla temperatura che c'è nelle nostre case. Spesso è troppo elevata e ci farebbe risparmiare anche un po' di soldi, abbassarla, salute, e ci guadagnerebbe anche l'ambiente. Perché c'è questa teoria del grasso bruno, dottor Ongaro. Se noi dormiamo un pochino più al freddo, il nostro corpo produce questo grassetto che ci piace di più. Perché, dottor Ongaro? Ma intanto diciamo che sì, che più che una teoria è stato dimostrato questo, nel senso che anche uno studio recente ha messo in evidenza che un paio d'ore passate a 17 gradi, quindi non un freddo estremo, un freddo anche tollerabile di notte per esempio a casa, per 6 settimane produce un 5% in meno di tessuto adiposo. Soltanto l'abbassamento della temperatura pare che riattivi appunto. Ma io devo dormire, devo stare in una camera a 17 gradi, sì, certo. Oppure posso ad esempio stare fuori per 2 ore e approfitto qua. No, certo. Vado un po' al mercato. Se c'è una che deve approfittare sono io, che tu sei magrolina, non hai bisogno. Diciamo che la cosa è abbastanza indifferente, quello che conta è esporre il corpo ad una temperatura che non sia troppo elevata per un periodo abbastanza prolungato di tempo. E quello che si pensava, cioè che il grasso bruno fosse presente soltanto nei bambini, poi è presente negli animali che vanno in letargo, in realtà oggi sappiamo che una quota parte esiste anche nell'adulto e ha una funzione metabolica differente. È bruno perché è ricco di mitocondri, che sono quelle componenti cellulari che utilizzano l'energia, e quindi è un grasso che di fatto toglie grasso dal tessuto adiposo bianco e lo consuma. Quindi, io da stasera mi piazzo fuori dal balcone per un'ora becco una bella broncopolmonite, però in compenso divento una fotomodella. No, che poi non vieni più a lavorare, io cosa faccio? Basta abbassare un po' la temperatura a casa. Sentiamo Andrea dalla provincia di Pisa e poi Andrea dalla provincia di Desio. Abbiamo risposto anche all'ascoltatrice. Sì, perché il dottor Ongaro dall'ascoltatrice diceva appunto occuparsi dell'attacco di panico, l'umore, ci sono poi delle piante adattogene che favoriscono un po' il riequilibrio del nostro umore. Andrea dalla provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, devo dire che personalmente ho trovato un beneficio sostanziale nella concentrazione del respiro profondo. Mi è rimasto con esperienza yoga, solo di posizioni, e quindi l'ossigenazione della semplice respirazione pranayama, no? Dei 4 tempi, sì. Riuscendo a contare anche magari soltanto per pochi secondi in ispirazione, trattenendo per gli stessi secondi in apnea, e poi espellendo per il stesso tempo, e quindi poi di nuovo un'apnea, quindi 4 tempi. Questa ossigenazione a me, io sono convinto che è riuscito a ridarmi quell'energia che mi mancava in un brutto periodo. Certo, perché Andrea, respiro e vita, tra l'altro Andrea, abbiamo dedicato molte puntate nella versione di Essere Benessere al potere del respiro, direi un potere terapeutico. Abbiamo anche fatto dei brevi video che potete ancora vedere nella pagina di Cuore Denari con i maestri yoga che sono intervenuti qui in trasmissione. Quindi grazie Andrea per aver ricordato questo strumento alla portata di tutti. Esatto. Che riesce assolutamente a dare energia, dottor Ongaro. Sicuramente altra cosa che proviene da tradizioni molto antiche, ma che è stata rivalutata e confermata dalla scienza più moderna, tra l'altro è un modo per riequilibrare i due rami del sistema nervoso simpatico, quindi del sistema nervoso autonomo, il parasimpatico e il simpatico, e mi porta anche a dire che tutte queste forme di intervento sono molto importanti, semplici, a basso costo e molto utili. Anche l'autodialogo, una cosa semplicissima. Io quando parlo con i pazienti sento sempre pazienti che si mettono sotto stress, usano troppo spesso il verbo devo invece di posso, sono molto esigenti con se stessi. Quindi anche imparare un pochino a tollerarsi di più, a coccolarsi di più, a usare di più il posso invece del devo, non pretendere troppo, perché molto spesso ci accorgiamo lavorando con i pazienti che molto dello stress di fatto è autoindotto. Certo. E cambiando poche cose, per esempio l'autodialogo, e inserendo delle cose non banali ma piuttosto semplici da acquisire, come quelle che suggeriva Andrea, ci sono dei cambiamenti fenomenali. Insomma, alle volte insomma, si risolvono con veramente... una manutenzione, con degli interventi ordinari. Esatto. Otteniamo, per ricollegarci al nostro dottor Mion, dei risultati straordinari. Lo Stato non ci dà nulla in cambio, ma in compenso noi ne guadagniamo moltissimo autonomamente. Allora, molte ascoltatrici ci stanno scrivendo: brave. Ho scoperto l'origine della mia stanchezza, è la tiroide. Alcuni altri ascoltatori ci raccontano che con un esame delle intolleranze alimentari hanno individuato gli alimenti che disturbavano il buon funzionamento dell'organismo, di questa straordinaria macchina. Funzionavano un po' come granellino di sabbia dentro l'ingranaggio, e adesso, oltre a essere dimagriti, si sentono dei leoni. E noi continuiamo ad aspettare le vostre telefonate. Queste sono davvero la nostra energia e l'energia del programma. Quindi 800 24 00 24, adesso vi accompagniamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Cuore e denari. Eccoci qua, stiamo parlando di lavori ordinari e straordinari. Eh sì, quelli che fa il nostro corpo qualche volta, perché lavoriamo, come dire, portiamo avanti tutti i nostri impegni di ordinaria amministrazione, ma qualche volta... Quello che farai tu quando stasera ti metterai in balcone. Se non mi denunceranno i vicini di casa, perché ovviamente vedrebbero questa pazza che vuole... produrre del grasso bruno, perché è buono e che ci fa dimagrire, stranamente. E allora 800 24 00 24, per scherzare con noi ma anche per affrontare con noi temi seri come la dispersione energetica dell'abitazione, come fare per renderla efficiente dal punto di vista energetico, non solo la nostra casa ma anche il nostro fisico. Natura, nutrizione scientifica vi presenta Essere e benessere. Allora, volete ordinare? Un doppio pizza burger con patatine al ciglio e formaggio e un milkshake grande al cioccolato. Buona idea. Posso avere la stessa identica cosa? Perfetto, tu mi fai disconnettere. Sai, è bello vedere una ragazza ordinare un pasto vero. Io non vi sopporto quando ordinate un bicchiere d'acqua e un crostino. Fate passare la voglia di uscire con voi. Beh, probabilmente è quello che dovrei ordinare io, no? Ma... tanto, indipendentemente da quello che mangio, il mio peso non cambia, quindi me ne frego e mangio tutto quello che mi pare e piace. Sono d'accordo, se riesci a pensarla così, tanto di cappello. Non fare lo strafottente. Aspetta, perché? No, sto solo dicendo che mi sento male per le persone che contano le calorie, quello non è un modo di vivere. Allora, uomini all'ascolto, se mi invitate a cena sappiate che io non sono di quelle che ordinano l'insalatina scondita. E qua sgombriamo il campo. No, infatti, se volete invitarla, passate, io selezionerò naturalmente le richieste. Dottor allora. Longaro, abbiamo imparato con lei nel corso di tantissime puntate di Mangia con me, non solo, di vedere le calorie sotto un altro punto di vista, o meglio, gli alimenti. Non dobbiamo considerare solo il potere calorico, quindi l'energia che, no, ci forniscono, ma soprattutto capire che questi alimenti, tutto quello che mangiamo, condiziona anche i nostri geni, li fa lavorare per noi oppure li mette nella condizione di mettersi contro di noi. Quindi quello che mangiamo produce il nostro malessere o il nostro benessere. Indubbiamente, anche perché diciamo che il tema dell'alimentazione non è solo il controllo del peso, ma è di fatto il controllo della salute. Allora io potrei anche dimagrire mangiando 500 calorie al giorno di, non lo so, biscotti o salsicce o altro, ma non è detto che questo però mi faccia particolarmente bene alla salute. Diciamo che rispetto a una visione monodimensionale dell'alimentazione, cioè soltanto che considera soltanto le calorie, oggi si tende ad avere una visione multidimensionale. Quindi certo le calorie esistono, non è che non è che possiamo dimenticarcelo, ma ci sono altri fattori, i nutrienti che gli alimenti portano all'interno del nostro corpo hanno delle proprietà che vanno al di là del puro bilancio calorico, hanno, come stavi giustamente accennando tu, questa grande capacità di influenzare la regolazione del metabolismo, l'espressione dei nostri geni e quindi la funzionalità del nostro corpo e delle nostre cellule. Chissà se i nostri ascoltatori hanno letto ieri sui giornali la storia di Barry Houston, l'uomo che per raggiungere il record del più grasso del mondo e far parlare di sé, e qui chiaramente ci saranno dietro altri problemi che stamattina non abbiamo il tempo di affrontare, mangiava, ingeriva, ingurgitava cibo che ammontava a 29.000 calorie al giorno al posto delle 2.000 in medio necessarie per un uomo. Con che cosa faceva colazione, Nicoletta? 6 salsicce, 6 uova, svariate strisce di bacon, c'è proprio la sua colazione, il menù della colazione riportata sui giornali. Ma dottor Ongaro, spesso la nostra stanchezza deriva proprio dalla scarsa qualità di quello che introduciamo. Sì, dalla scarsa qualità e anche da un altro fenomeno che si tende a chiamare oggi il timing della nutrizione, cioè in sostanza la sequenza con cui introduco gli alimenti nel corso della giornata, perché anche per esempio mangiare un pasto piuttosto corretto ma poi far passare troppe ore dalla prossima introduzione di alimenti, chiaro che porta a momenti di stanchezza e di calo di energia. Quindi anche imparare a distribuire gli alimenti nel corso della giornata è una cosa, ecco, che aiuta molto. Barry Sears, che abbiamo avuto il piacere di avere qua in studio a Radio 24, raccomanda di non fare passare oltre 5 ore tra un pasto e l'altro. Anche lei è della stessa idea? Io direi, anche se consideriamo come pasti anche i piccoli spuntini, potrei dire anche un pochino meno, anche attorno alle 3-4 ore, cercare di avere a portata di mano uno spuntino che sia uno spuntino corretto. Adoro questa chiave di lettura, posso dirla? detto che sia uno spuntino corretto. Esatto, non ne sei salsicce alle 3 del pomeriggio e non ne sei fili di bacon, appunto. Sì. I nostri ascoltatori, 800 24 00 24, chi ti piace, Nicoletta? 674, non ho visto che mi hai indicato. No, vai tu. Andiamo con Maurizio da Torino. Buongiorno. Maurizio. Buongiorno. Mi sentite bene? No, purtroppo la sentiamo male. Maurizio, allora la richiamiamo. Maurizio. Facciamo così, andiamo ad Andrea da Desio, così sentiamo anche qualche suggerimento di Mirko Mion sulla casa. E poi andiamo a Maria da Prato. Andrea. Buongiorno, ci dica. Sì. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, semplicemente... Però non ti ha invitato a cena, ha detto complimenti. Mi sono sentito preso in causa, dato che sono uno degli ultimi che si svegliano per fare i lavori. E voglio sapere quali erano le procedure da seguire per acquistare il materiale isolante e fare il lavoro da me. Ma lei è capace, Andrea? Ho una certa manualità. Bene, bravo. Bravo. Allora, Mion, se invece di rivolgerci ad un'impresa vogliamo fare da soli i lavori in casa, lo Stato ci riconosce lo stesso gli incentivi fiscali? Diciamo che ci sono tutta una serie di problematiche che non sono soltanto connesse allo svolgimento o all'acquisto di alcuni materiali. Diciamo così che ci sono alcuni materiali, come possono essere gli infissi, che non rientrerebbero nel 65% ma nel 50%, che hanno esclusivamente la necessità di una certificazione della ditta produttrice, mentre invece qualsiasi altro tipo di lavoro, quello legato al 65%, ha la necessità di una serie di certificazioni. Esatto, quindi Andrea potrebbe fare il lavoro, ma prima deve avere la famosa asseverazione energetica, cioè Esatto, perché l'obiettivo di questo 65% è quello di riuscire a raggiungere un indice di prestazione energetica. Certo. Mion, dobbiamo fermarci e riprendiamo questo discorso dopo il giornale radio. A tra poco. Cuore e denari. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai. Stanco. No, oggi no. E meno male che oggi non è stanco. Finalmente siamo tornate noi sì. con molta energia. Sono le 12.09. Vogliamo dedicare l'ultima parte della trasmissione a tutte le vostre telefonate. Sono davvero tante, ma saltate con energia la barriera rosa. Non ne stiamo parlando da qualche giorno, ma la barriera rosa esiste e dovete superarla. Magari un giorno la facciamo salutare i nostri ascoltatori. 800 24 00 24, parola chiave energia, a tutto tondo, che è un'espressione che piace molto ai nostri ascoltatori, ho scoperto. Perché a tutto tondo, però non è inappropriato per il modo con cui stiamo trattando l'argomento stamattina. Parliamo di energia fisica, ma anche quella della nostra abitazione. Ci sono molti proprietari di casa che stanno sfruttando da qualche tempo a questa parte gli incentivi fiscali che lo Stato riconosce a chi esegue lavori di manutenzione straordinaria, proprio per far risparmiare energia alla casa. E se voi l'energia volete invece ricaricarla, perché vi sentite con le batterie giù a livello fisico, a livello mentale, approfittate, perché oggi qua in studio con noi, pronto a darvi consigli, indicazioni, suggerimenti, il dottor Filippo Ongaro. E allora iniziamo, casa corpo o casa casa? Vai tu casualmente, qual è stata l'ultima telefonata? Forse dovevamo completare la risposta per l'ascoltatore precedente che vuole fare da sé i lavori in casa, ma vuole capire se può lo stesso fruire degli incentivi fiscali. Avevamo già cominciato a dare... Chi fa da sé fa per tre, ma lo Stato cosa dice? Che comunque una piccola verifica iniziale va fatta da un esperto. Direi che sono lavori con una discreta complessità innanzitutto, quindi che necessitano anche di una fase preventiva di valutazione dell'intervento. Si parlava prima di una verifica e poi di quello che è l'obiettivo finale che si presuppone si debba raggiungere, quindi dell'efficientamento energetico. Quindi io ritengo che un tecnico sia assolutamente indispensabile. Altresì è indispensabile poi per redigere tutta la documentazione necessaria, cioè l'asseverazione che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica che comprende tutti quei dati sul appunto sull'efficienza energetica raggiunte dal proprio edificio. Insomma, bisogna e poi paghiamo, farsi fare una visita e poi paghiamo col bonifico relativa agli indirizzi e agli interventi realizzati. Tutta l'abbiamo scoraggiato. Non è che scoraggiato, poi tutta questa documentazione andrà inviata all'Enea E da soli entro non 90 farlo. Giorni dalla data in cui sono ultimati i lavori, quindi del cosiddetto collaudo. Mi passa un po' la voglia, nel senso che ci vuole un sacco di energia. Volevi mettere sugli infissi da sola, anzi gli scuri, come li chiama l'ascoltatore. Però devo dire che bisogna avere, essere molto capaci e professionali. E voi potete continuare a ascoltare Cuore Denari, oppure se avete un problema scriverci, perché i nostri esperti vi rispondono. Ma dottor Ongaro, Mirko Mion raccontava un po' di questa sorta di visita, no? Che è necessario fare. Anche noi ogni tanto dovremmo farci controllare qualche parametro, ad esempio molte delle nostre ascoltatrici sono alle prese con una tiroide che o funziona troppo o funziona troppo poco. La tiroide è una ghiandola, ne parleremo insieme a Deborah Rosciani, che alle donne dà spesso filo da torcere. E noi abbiamo Anna che ci chiama da Vicenza, che ci vuole raccontare proprio il suo difficile rapporto con questa ghiandola bella e fatta farfalla in un posto molto delicato. Proprio però bella. Mamma mia, Anna, buongiorno. Si altera molto facilmente. Sì, Anna, salve. Buongiorno. Sì, allora io soffro di ipotiroidismo. Assumo la pastiglia ogni mattina per la tiroide e gli esami sono in ordine, i valori del sangue sono che faccio periodicamente ogni sei mesi. Però io, allora, pur dormendo bene, anche se di notte dormo bene, alla mattina mi sveglio normalmente, non neanche troppo affaticata, ho il crollo io alla sera, ma alla sera tipo intorno alle 20, 20 e 30, veramente un crollo. Io mi addormento e poi dormo anche fino alla mattina, fino alle 6:30 tranquillamente. Insomma, la sua vita sociale ma che lavoro fa Anna? Magari ha, come dire, degli impegni quotidiani che la affaticano e che non non sono riconducibili, sì, come dire, alla tiroide. No, sì, ho un lavoro di impiegata, fortunatamente, e a 8 ore al giorno, ho anche 2 bambini piccoli, però bella. Arrivare alle 20, insomma, alla ragione, sera. Anna, il dottor Ongaro, perché noi alla sera vorremmo avere anche un po' di energia, ecco, soprattutto quando sì. si lavora tutta la giornata, un po' di energia da dedicare ai propri al figli, al proprio partner, gli amici, insomma, no? Perché energia chiama energia. Dottor Ongaro. Sì, premesso appunto che lavorando, avendo 2 bambini piccoli e arrivando ad essere stanchi alla sera, non è detto che ci sia effettivamente un problema e che nemmeno sia un problema legato alla tiroide. Però non è nemmeno del tutto da escludere questa ipotesi, nel senso che ci sono pazienti che hanno problemi tiroidei, in questo caso un ipotiroidismo, che assumono il farmaco. Quindi ma che la tiroide funziona poco. Sì, ma che nonostante questo continuano ad avere alcuni sintomi: la stanchezza, la sensazione di freddo, la tendenza ad aumentare di peso, le unghie fragili, la tendenza a perdere i capelli, la stitichezza. Sono tutti possibili sintomi di una tiroide che non funziona bene, compreso l'abbassamento del tono dell'umore, e sono sintomi che alle volte permangono nonostante la terapia. In questo caso è bene parlarne con il medico, perché può essere che sia il dosaggio da ritarare. Quando si dice gli esami sono a posto, è un termine un po' vago, perché c'è un range piuttosto ampio nei parametri tiroidei, quindi a posto sì, ma possono essere risettati dal medico in modo tale da dare un po' più di energia e di tolleranza alla fatica. Possono esserci casi di assorbimento non idoneo del farmaco che magari va sostituito con un altro. Quindi direi, quando si sa di avere questo tipo di problema, è bene parlarne con il medico. Quando invece quei sintomi che ho citato prima permangono per un certo periodo, è bene andare a controllare assieme al medico i parametri tiroidei, perché è un'ipotesi plausibile che ci sia un problema. Parametri tiroidei che si possono controllare con dei banali esami del sangue. Del sangue, come ci scrive un nostro ascoltatore, certo. Ci domanda come controllare la tiroide. E basta fare un esame del sangue e scoprire il valore del TSH. Sì, diciamo, normalmente si tende a fare solo il TSH. Io consiglio, se possibile, di fare TSH, FT3, FT4, perché dà un parametro, una visione più completa della funzionalità tiroidea, ma sono esami piuttosto comuni, insomma. Vi segnalo che nei nostri archivi abbiamo dedicato, potete trovare delle puntate proprio dedicate a questa ghiandola farfallina che in tutti i sensi pesante, noiosa come una mosca. Senti, qua il grasso bruno ha suscitato una grande attrazione per i nostri ascoltatori, e allora tutti si sentono adesso a questo punto di assumere questa dieta falsa, quella di mettersi al freddo a dormire la sera, ma insomma molti ascoltatori dicono che già hanno queste abitudini di dormire con le finestre aperte, con una temperatura molto bassa, ma dicono eppure non dimagrisce nessuno. Perché ma adesso bisogna dormire come insegnava Marilyn. Con Chanel lei numero dice, 5. Non voglio dire nuda, ma dormo con Chanel numero 5. But it's true, è vero. Magari ci arriva anche uno Chanel numero 5 per noi, chissà. Eccola là. Allora, sentiamo Lucia da Guidonia, dai. Va, che ritorna su questa storia del grasso bruno. Lucia. Buongiorno. Io mi rifacevo proprio a quello che sentivo e dicevo, io sono lavoro in un ambiente che non supera i 15 gradi e quindi tutto il giorno. Che lavoro a fa? Casa ho la temperatura bassa per una serie di ragioni di risparmio e quindi dico, dovrei essere un'acciuga, ma ho 10 kg di troppo. La tiroide sembrerebbe che sia a posto, perché ho fatto vari esami. E non l'alimentazione com'è? Che cos'è che sbaglio? Dottor Ongaro. Si muove, fa sport, si muove un pochino, Lucia, non dico lo sport, no, quello che... No, io mi muovo perché sembrerebbe che io, anche se sto tutto il giorno in piedi in negozio, avanti e indietro, sembrerebbe che faccio una vita invece sedentaria. Insomma, non è proprio un'acciuga, diciamo una sardina. Ma è un metabolismo Ongaro. Veramente da... Sì, da allora combattere. È chiaro che non prenderei il discorso del grasso bruno come un discorso univoco, no? Ci sono purtroppo, per fortuna, moltissimi fattori che determinano la regolazione del peso corporeo nel tempo, e il fatto di vivere a una temperatura piuttosto bassa nella propria vita quotidiana può aiutare, ma certo non è risolutivo. In questo caso, se la signora è consapevole di seguire già un'alimentazione corretta, la variabile che manca indubbiamente è l'attività fisica. Quindi io penserei di introdurre quella, non solo il movimento in negozio, dottor ma qualcosa Ongaro, di più strutturato. Io vorrei però ricordare alla nostra ascoltatrice, come alle amiche che ci stanno seguendo, che anche il cambiamento di alcuni alimenti può portare a risvegliare il metabolismo, come lei accennava, ad esempio dal raffinato al manuale integrale è una scelta che costa pochissimo, fa guadagnare anche in termini di gusto, però rende perché risveglia un po' il metabolismo. Questo è un esempio, ma il dottor Ungaro, la ricettina dell'aceto non ce la racconti? Ce ne sono altri anche. La ricettina dell'aceto non la racconto più perché sempre in prima testa, in prima nella classifica dei temi più, seguiti sul sito di Radio 24, poi chi si loda si imbroda, ma sicuramente questa abitudine di iniziare la giornata a digiuno con dell'acqua e a cui aggiungiamo un paio di cucchiaini di aceto di mele è piaciuta molto. È una ricettina che ci ha dato il dottor Gualersi, ma di cui avevamo parlato tante volte anche con il dottor Ungaro, e sembra che piaccia molto. Vediamo se il grasso bruno la batte, perché adesso dobbiamo cercare. Mettiamo insieme tutte le due cose, spostiamo, facciamo un po' di movimento, un po' di passeggiata e magari un dottor po' meno. Ungaro, super alimenti per o integratori per risvegliare un po' questo metabolismo. Sì, io credo, purtroppo, se uno vuole dare una risposta seria a questo tema, purtroppo è che si parla tantissimo di questo, però poi alla fine, se si vuole dare una risposta seria, si arriva sempre da capo: non esistono miracoli. Esiste un progetto di vita, se vuoi, che prende in considerazione l'alimentazione, l'introduzione di un'attività fisica idonea per età e per condizione, ma regolare, che prende in considerazione un po' quello che abbiamo detto prima, cioè delle tecniche di rilassamento, dallo yoga a un autodialogo positivo. Non esiste la soluzione magica al controllo del peso, assolutamente. E poi c'è anche l'individualità. C'è un'individualità, certo, che poi ad un certo punto bisogna anche comprendere e non violentare, nel senso che dobbiamo avere un ideale di raggiungimento di un peso corporeo che protegga da patologie. Possiamo anche avere un ideale estetico, ma dobbiamo anche renderci conto di dove arriva un limite, però, perché non è detto che siamo tutti uguali e dobbiamo anche imparare a capire questo, insomma. Renderci conto, e noi continuiamo però a fare i conti con il nostro Mirko Mion, che abbiamo solamente abbandonato per qualche minuto, ma l'abbiamo sempre qua nel nostro cuore, perché lei ci deve dire, dottor Mion, ma c'è un tetto? Cioè, io faccio queste ristrutturazioni, eccola lì, ma ho un tetto, oppure spendo e poi dico, beh, tanto ho il 50% o il 65% di... Il tetto c'è, ma è molto è piuttosto altino. Quanto è alto questo tetto? Domanda molto pertinente. Abbiamo quattro tipologie di tetti riferiti a quattro tipologie di interventi. Quello riferito alla riqualificazione energetica in genere è il tetto massimo pari a 100.000 euro, dove nella formulazione attuale con la deducibilità del 65% ci permette di spendere e espandere fino a 53.000 euro circa, perché nella realtà è stata aumentata la percentuale di detrazione dal 50-65%, però mantenendo questo valore massimo di, come dire, concetto di capienza, di detraibilità, quindi 100.000 euro massimo detraibile in 10 rate annuali, si diminuisce di fatto la spesa massima. Mentre per gli interventi sull'involucro, quindi il cosiddetto cappotto termico, abbiamo un valore massimo della detrazione fiscale di 60.000 euro. Stessa cosa, quindi stesso massimale, per l'installazione dei pannelli solari, che ritorno a precisare perché da molte volte adito a possibili confusioni, sono i pannelli solari dedicati alla produzione di acqua calda, di nuovo 60.000 euro, e invece per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi la sostituzione della caldaia, tutto ciò che produce poi il calore durante l'inverno, abbiamo un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, che conseguentemente ci permette in questo ultimo caso di fare una spesa fino a 46.000 euro, che direi riteniamo che sia assolutamente disponibile. Volevo solo ancora fare una segnalazione, se mi è permesso, nel senso, noi mettiamo a disposizione di tutti coloro che volessero prenderne visione sul nostro sito di www.agefis.it una pubblicazione assolutamente gratuita con tutta una serie di domande e risposte di casi pratici che potranno aiutare sicuramente. Voi ci mettete i casi pratici, l'Agenzia delle Entrate anche lo fa, anche il Sole 24 Ore, qua dobbiamo anche dirlo. Tra l'altro, però, nonostante questi incentivi fiscali ci siano da tanti anni, poi cambiati nelle modalità, nei tetti, ma insomma, per esempio il 36% è strutturale ormai, è una misura che va avanti da 10-12 anni, ci sono alcuni ascoltatori che fanno i lavori e così, sentono alla radio e si accorgono che ci sono queste opportunità e quindi le hanno perse, avendo fatto i lavori appunto non hanno fatto poi tutte le procedure regolari per poter usufruire di questi incentivi. Allora vorrei sentire Sorin dalla provincia di Brescia, se lo possiamo recuperare. Sorin, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapidissimo, grazie. Il mio italiano, rapidissimo. Non si preoccupi. Avevo cambiato la mia caldaia con una a pellet, che praticamente mi fa sia l'acqua calda che il caldo. Ha fatto quando ho fatto il preventivo alla ditta del comune lì, mi hanno detto guardi che puoi detrarre il 55% facendo questo lavoro qui. Ho detto va benissimo, poi sono andato a fare il 730 con la fattura in mano e mi hanno detto che non posso detrarre perché manca la voce di ristruttura. Allora Sorin, aspetti lì, Mion, tardi per recuperare per Sorin, oppure insomma qui per la caldaia, oppure vale tutto il discorso che facevamo prima, ci voleva appunto prima il tecnico che facesse la quantificazione della dispersione energetica di questa abitazione, che tipo di beneficio poteva avere questa casa con appunto l'installazione di questa caldaia, eccetera, che cosa manca? Beh, in questo caso, facendo riferimento alla stufa pellet, come diceva correttamente l'ascoltatore, rientrerebbe non nella detrazione del 65 ma però, del 50%, dove sarebbe stato sufficiente presentare assieme alla fattura anche la certificazione del produttore della stufa. E quindi anche lì, quando andiamo, realtà, se lui questa spesa l'ha fatta nel 2012, ormai di fatto l'ha persa perché ha presentato la dichiarazione. Se l'ha fatta ora e lo porterà in detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi. Quindi attenzione anche al professionista che ci fa i lavori, insomma, documentiamoci bene sul grado di professionalità. Noi dobbiamo quasi salutarci. Davvero? No, ma vediamo ancora Enrico dalla provincia di Roma. Ma intanto diciamo agli ascoltatori che all'ultimo ascoltatore che supererà la barriera rosa toccherà come sempre un libro di Cuore e Denaro. 800 24 00 24, fatela impazzire. Enrico dalla provincia di Roma, vada. Enrico, in 10 secondi. Sì, sono io, ma non è Roma, è Rimini. Beh, non importa, non importa, vada che chiudiamo. Vi siete cadute, siete mitiche, vi fate impazzire. Una cosa molto rapida. Ci porti rapida a ballare, Enrico, invece di dire che siamo mitiche. Dai che abbiamo 30 secondi. Le pare che non ci veniamo, veloce. No, è velocissimo, ma sono 35 anni che sono fedelmente innamorato di mia moglie. Ascoltate bravo bene me. Nicoletta, non hai nessuna speranza. Rapidi, una cosa molto pazzesca. Io sono innamorato del baseball, oltre a questo, per cui in estate mi guardo tantissime partite perché in America ci sfumano molti. Niente, Enrico, la sentiamo in un'altra puntata, abbia pazienza. Intanto purtroppo un oggi bacio ad Enrico, a lui e alla sua moglie al baseball. Ecco, grazie, qua grazie Ongaro. grazie a tutti dottor, grazie Mion. Anche Mion, presto, grazie a tutti, facciamo voi, limo, facciamo la minimo, a presto. Sì. Nicoletta, noi ci sentiamo domani, ciao. Cuore e denari.